morte 33, io manco ci arrivo. Crisi di panico e problemi che manco ti dico. Dio m'ha incoronato dal giorno che sono vivo. Ho una croce sulla spalla, il sangue sul viso. Dei problemi me ne libero solo da morto. Padre prega perché ho peccato molto. Anche se all'anima preferisco il corpo, manco una lacrima solcherà sto volto. Dio perdona tutti ma non tutti lo perdonano. Dio ci ascolta tutti, solo in pochi ci discutono. Più cresco e più le spine si infilano in testa. Più cresco e più la vita la sogno diversa. Ma è stato meglio di così. Ho una corona come un re. I problemi mi si infilano in testa. Cercano una via d'uscita anche se l'uscita non c'è. Ma è stato meglio di così. Ho una corona come un re. I problemi mi si infilano in testa. Cercano una via d'uscita anche se l'uscita non c'è. Ho una corona come un re, fra. Rappresenta i miei problemi che mi porto da una vita appresso. Scrivo a Dio ma è sconnesso. Guardo il cielo è tutto nero, fra, mi piova addosso. Accendo una Marlboro, giro l'angolo. Nodo in gola da una vita che mi strangolo. Su un filo sonnambulo, a destra Dio, dall'altra al diavolo. Dove cado già lo immagino. Mix di medicine contro il panico. Lunatico, mischio merda con il platino. Sono un mito, te lo dico. Quando muoio riportami qui con un rito satanico. Ma è stato meglio di così. Ho una corona come un re. I problemi mi si infilano in testa. Cercano una via d'uscita anche se l'uscita non c'è. Ma è stato meglio di così. Ho una corona come un re. I problemi mi si infilano in testa. Cercano una via d'uscita anche se l'uscita non c'è.